Nella mia stanza tanti libri colorati, tre pacchetti vuoti, un disco nuovo, tanti usati. Conto le lattine con l'orecchio su un ragtime e volo dove chi lo sa, volo e sento che mi va. Prendo un Douglas e via col vento, prendo l'ultimo metrò. Com'è bello quando sento che ho capito e che lo so, che è più facile scalare la montagna più alta se volo, e sento tutto questo dentro me.